Eccoci a una nuova puntata della Fuga del Gatto. E domenica 18 dicembre, sì. E l'ultima, no, non l'ultima, la penultima puntata del 2016, perché poi, oddio, non è che sono così sicura di cosa sto dicendo, perché no, infatti non è vero, c'è anche quella del 30. Vabbè, diciamo che ancora un po' di quest'anno c'è ancora, però vabbè, pazienza. Ci dobbiamo ancora subire un po' questo 2016 travagliato. E oggi parliamo di una cosa buffa, bella e in rimando alla trasmissione che abbiamo fatto domenica scorsa. Abbiamo di nuovo la nostra ospite ormai quasi fissa, Virginia. Ciao, ciao a tutti. Perché in realtà vi dobbiamo parlare di un'altra animazione che ha unito la musica classica ai disegni e appunto le animazioni, e che è la risposta, diciamo, italiana a Fantasia, e è il film di Bruno Bozzetto, Allegro non troppo, che non so quanti di voi hanno visto. Io l'ho visto veramente quando ero piccolissima, non mi ricordo praticamente niente. Quando poi l'ho rivisto l'altro giorno, sollecitata da Virginia, mi sono ricordata qualcosa in più e avevo dei flash e probabilmente qualcosa dentro mi era rimasto. Però insomma, è probabilmente ancora ad oggi un film abbastanza sottovalutato, soprattutto rispetto a Fantasia e il suo enorme successo che ha avuto. Sì, ecco, è buffo perché abbiamo detto appunto l'altra domenica che Fantasia compiva appunto gli anni, perché essendo del 40, no? Aveva appena compiuto gli anni. E questo film uguale, perché è appunto uscito nel 76, quindi compie proprio quest'anno i suoi primi 40 anni. Numeroni. E forse non tutti sapevano che il film di Bozzetto in realtà è uscito nel 76, ma non in Italia, perché non riuscì, piccola perla, a trovare una distribuzione cinematografica in Italia per ben 3 anni dopo la sua uscita. Quando tentò di presentarlo alla Cineritz, Bozzetto si sentì rispondere che il film era bellissimo, ma non aveva un pubblico a cui poter essere indirizzato, non aveva un target ben preciso, perché poi, come vedremo più avanti, vedremo e sentiremo, non è propriamente un film per bambini, come non lo era totalmente Fantasia. E questo quindi, ancora meno, probabilmente. Esatto, ancora meno, ma in generale cose di Bozzetto poi, insomma, se molti di voi le conosceranno, non sono proprio solo da bambini, anzi. E quindi paradossalmente il film uscì prima negli Stati Uniti, infatti il 27 ottobre del 76, e solo dopo 5 mesi di proiezione negli Stati Uniti, un produttore italiano che lo aveva visionato si dimostrò entusiasta e disposto a distribuirlo in patria, dove uscì il 22 dicembre del 77, quindi uscì qui solo nel 77. Hai capito. Quindi ecco, come sì, ancora una volta gli altri paesi sono avanti anche sui nostri autori. Quindi questo sarebbe un discorso lungo e tempestoso, ma non poco. Esatto, lo bypasseremo questa volta perché ci sono anche qui diverse cose da dire e da far sentire soprattutto. Chiaramente noi l'abbiamo messo in corrispondenza con Fantasia, insomma abbiamo fatto questo dittico proprio perché... insomma, chiaramente nasce su ispirazione di Fantasia, appunto, come avevamo già detto, non che la Disney fosse stata la prima a utilizzare la musica a cartoni animati, però sicuramente insomma fu un'ispirazione per molti altri artisti, tra cui Bozzetto, che appunto scelse di creare questo insieme di corti, di giustapporli uno all'altro, su dei pezzi di musica classica piuttosto noti, forse ancora più noti di quelli usati in Fantasia. È vero, è vero, da questo punto di vista è stata un po' meno audace la scelta di Bozzetto. Sì, sì, anche perché appunto, essendo italiano, forse c'aveva un retaggio anche diverso musicale. Fin dall'inizio, in realtà, anche qui il film, appunto, un po' come Fantasia, anche se in maniera minore, insomma, richiedette un discreto sforzo, perché chiaramente è un film che combina la parte filmata, quindi la propria regia, insomma, live action, a appunto questi segmenti animati che non sono tutti di Bozzetto completamente, ma si avvalgono di altri autori, altri disegnatori, poi vedremo. Fin dall'inizio Bozzetto aveva deciso di creare un netto stacco tra il film davvero, tra le riprese davvero e le parti animate, e per questo, per le riprese davvero, scelse una fotografia in bianco e nero, volutamente molto datata, molto vecchia, molto contrastata, proprio perché voleva dare questo effetto particolarmente appunto distaccato da quelle che poi sono invece le parti animate, che sono invece molto colorate, molto molto forti, cose un po' psichedeliche, sì, alcune sì, molto, e ovviamente un altro tema da cui si distacca da Fantasia è proprio la scelta dei temi trattati, perché Bozzetto, così come gli altri autori che hanno contribuito a questo film, insomma, ha scelto dei temi molto, molto più forti, tra virgolette, per i suoi pezzi animati, no? Tra cui appunto il tema comunque del corpo, della sessualità, del consumismo, dei rapporti tra gli esseri umani, un po' quelli che erano poi temi alla base di molte cose di Bozzetto che non sono le più famose, perché le più famose appunto il Signor Rossi, Whisky and Soda, West and Soda, scusate, i caroselli, le cose più mainstream, sono più conosciute. Le cose meno mainstream di Bozzetto sono forse anche le cose un po' più, non voglio dire più interessanti, però sicuramente con dei temi, sì, più originosi. Ma tra l'altro era abbastanza in linea con i disegnatori, almeno per quanto riguarda i temi e le suggestioni, con i disegnatori, illustratori e fumettisti dell'epoca, chiaro, italiani. Sì, è chiaro che poi si influenzavano a vicenda, ovviamente, insomma c'era già tutta una tradizione del fumetto in Italia che era nata e si stava sviluppando sicuramente in un certo senso, perché la società anche in quel momento, fortunatamente per quel momento, affrontava dei temi appunto di questo genere, quindi sicuramente, ecco, sarebbe stato impossibile rifare un Disney 2, insomma, e anche inutile, perché appunto ogni momento storico, ogni filone artistico ha le sue prerogative, e in questo caso appunto Bozzetto mise l'attenzione, insomma, focalizzò l'attenzione su questi temi, che poi vedremo, ognuno in maniera diversa, a momenti più ironici, a momenti più caustici, a momenti proprio più spinti, che rendono momenti anche tristissimi. Sì, tristissimi. E altra cosa, appunto, le parti filmate sono molto buffe, anche un po' per la presenza di comici come appunto Maurizio Micheli, che è il presentatore, quello che funge da presentatore, e Nichetti, che funge da fa la parte proprio del disegnatore vero e proprio, incatenato alla tavola da disegno, poi vedremo perché, insomma. Sì, poi con la gag veramente molto alla Staglio Olio. Sì, esatto, c'è tutto questo clima farsesco, molto molto da se vuoi quasi da Monty Python, da commedia del nonsense, cioè nelle parti filmate un po' in corrispondenza alle parti disegnate, c'è questo clima assurdo proprio di questa situazione, di questo teatro riempito di, insomma, di persone molto anziane e con questo direttore dell'orchestra nazista, fondamentalmente cattivissimo, col sigaro che sembra un po' Tinto Brass, e il povero Nichetti attaccato, schiavizzato a disegnare via via. Per cui molto buffo, poi racconteremo e questo. Per introdurre appunto il primo ascolto, che è una clip tratta proprio dall'inizissimo del film, dall'incipit, in cui il comico Maurizio Micheli, mutuando proprio l'inizio di Fantasia completamente, introduce il film, cerca di farlo in maniera molto seria, molto professionale, vedremo però che poi la cosa va Gli scappa di subito in mano. caciara, Sì, sì. sì, sì. E legato direttamente a Fantasia, appunto, sentirete perché l'approccio ironico è appunto comunque subito dichiarato in apertura del film e sentirete, insomma, la clip. Signore e signori, state per assistere ad uno spettacolo indimenticabile, ad un film destinato all'immortalità, immortale come le musiche che verranno ora eseguite e interpretate a disegni animati. Illustrare la musica, dare corpo e colore alle note, è un'aspirazione che ogni disegnatore cova nel fondo della propria anima fin dalla più tenera età. Con questo film siamo finalmente riusciti a realizzare questa unione. Disegni animati e musica classica, una coppia destinata a rimanere, ne siamo certi, nella storia del cinema. Un film nuovo, originale, che ha stupito per primi noi. Noi che modestamente l'abbiamo ideato, un film dove potrete vedere la musica e ascoltare i disegni. In una parola, un film pieno di fantasia. Pronto? Pronto, sì? Chi parla? No, dico prima io. Dica prima. No, ma scusi, lei con chi vuol parlare? Eh? California? Mi chiamano da Hollywood. Pronto? Pronto, sì? Sì? Avreste già. Ma non ho capito bene, scusi. Avreste già fatto il. Senta, guardi, se lei ha voglia di scherzare, io non ho nessuna voglia. No, guardi. No, se non ci siamo capiti bene. No, guardi. No, non ci siamo. Lei è un maleducato. Sì, lei è un maleducato. Un maleducato e un bugiardo. Un bugiardo, sì, esattamente, un bugiardo. Bugiardo della California. Niente, sono dei pazzi, dei. Pazzi scatenati sostengono che questo film, cosa assurda, l'avrebbe già fatto parecchi anni fa un certo Grisney, un americano, insomma. E in ogni caso, prima di parlare, caro lei, mi faccia il piacere di guardarselo il film, ha capito? E dove siamo? E dove siamo? E dove siamo? E in realtà siamo all'interno del teatro Gaetano Donizetti di Bergamo, perché le riprese, live action di questa buffissima party con gli attori veri, durarono 3-4 giorni e furono proprio girate appunto all'interno di questo teatro. Tuttora credo aperto, che è il teatro Gaetano Donizetti di Bergamo. Questo teatro vuoto, questo presentatore, un molto pomposo, interpretato da questo bravissimo comico, appunto, che avete appena sentito, introduce questo spettacolo piuttosto insolito, mentre un direttore d'orchestra fa eseguire una serie di brani a un'improbabile orchestra, appunto improvvisata e formata da vecchiette in abiti belle époque, prelevate da un ospizio. Bellissimo anche loro. Sì, sono tutti bravissimi, sì, bravissimi in questo film, va detto. Prelevate da un ospizio, e questo disegnatore, che è poi Nichetti, è tenuto incatenato per anni. È chiaro che è stato tenuto incatenato senza cibo per anni, e deve realizzare in tempo reale, cioè lui deve proprio disegnare mentre c'è i pezzi realizzati dal vivo, quindi è bellissimo perché c'è questa doppia, appunto, questo doppio binario del, no, del disegnatore schiavo e l'orchestra che gli suona sopra, e lui deve, poverino. Sebbene si dica in continuazione all'arte non si comanda, l'arte deve essere seduta libera. Il povero Nichetti è proprio schiavizzato. I rapporti tra il direttore e il disegnatore vanno via via deteriorandosi, perché il primo trova troppo tristi e deprimenti le creazioni, appunto, del disegnatore Nichetti, tanto che insieme al presentatore decidono di metterlo dell'umore giusto attraverso l'opera di una professionista, una sex worker. Signorina. E quindi, insomma, numeri. E nel frattempo in teatro cominciano a irrompere strane presenze con un gorilla, e poi appunto avvengono le esecuzioni dei pezzi come il Borero di Ravel, e poi c'è questo serpente uscito proprio dall'animazione dell'Uccello di Fuoco di Stravinsky, che poi sentirete all'ultimo pezzo, mentre il direttore d'orchestra ha la peggio con il gorilla, le vecchiette dell'orchestra fuggono dal serpente, il disegnatore tramuta se stesso e la ragazza delle pulizie di cui è innamorato in personaggi animati, Principe Azzurro e Biancaneve, e volano via, insomma, insieme in questo happy ending, ma anche no, insomma. Sì, si fa per dire. Il presentatore è rimasto solo e costretto a trovare un finale adatto per il film, e telefona a un mostruoso essere chiamato Franceschini perché lo cerchi in archivio, un archivio e qui, chiaro, e che è una premonizione all'ex ministro della cultura. Esatto, secondo me, secondo me se l'erano sentita. Gli assomiglia anche pure, un po', sì, eh? Questo mostrone. Ma tutti quelli che fa passare sono, insomma, uno spezzone, sono uno peggiore dell'altro, per cui alla fine il presentatore comincia a pensare a un nuovo film, una storia d'amore con una donna e sette piccoli uomini. Questo qui davvero non l'ho copiato dalla Disney. Eh no. Molto buffo. Avete appunto sentito lo sketch della telefonata di Maurizio Micheli, in cui appunto si fa diretto riferimento a Fantasia, e non a caso appena nominato il copyright interviene e lui viene subito riportato alla dura realtà, cioè che ovviamente, insomma, non poteva usare Fantasia come nome, e nonostante, insomma, si ficcasse di essere il primo, insomma, a aver pensato a un film a disegni animati, ovviamente non lo è. Diciamo questo, sì, il film appunto si compone, oltre di queste parti che abbiamo appena narrato, diegetiche della parte filmata, molto buffe, appunto si rifanno un po' alla commedia, insomma, piuttosto che proprio alla commedia nonsense, in generale, e poi ci sono appunto gli spezzoni animati che però non hanno tutti lo stesso stile grafico, non sono omogenei da questo punto di vista, perché sono disegnati appunto da vari autori. Bozzetto è il principale, ma appunto, come vedremo poi, non è il solo realizzatore, chiaramente. Il primo è forse uno dei più carini, che si svolge sulle musiche di Preludio al pomeriggio di un fauno di Claude Debussy, vede questo vecchio fauno in un mondo idilliaco, vede questo vecchio fauno in cerca di compagnia femminile, e per quanto però tenti di migliorare il proprio aspetto è rifiutato dalle giovani ninfe ed è costretto a rimanere solo, per poi accorgersi che le colline su cui sta camminando sono in realtà il corpo di una donna. Molto bello innanzitutto per il riferimento diretto allo spezzone della pastorale di Fantasia, in cui ci sono tutto questo mondo del mito, queste divinità, e quindi il riferimento più ovvio è quello. Però chiaramente anche in questo caso è alla Bozzetto, quindi non è mieloso e zuccheroso e tutto carino come nella Disney, ma è anzi, insomma, no? Un faro puntato sul tema appunto della senilità e del rapporto insomma, con la sessualità, col corpo femminile in generale. Che poverino, il fauno fa veramente tristezza, sì, poveraccio. Tristello, sì, io speravo fino alla fine che ritornasse giovine, sì, o che comunque in qualche modo vincesse, ma invece niente. Che invece non siamo nella Disney e no, quindi non si vince. No happy ending. E ve lo facciamo sentire a questo punto, preludio alla Prémédie d'un Faun, ovvero il preludio al pomeriggio di un fauno, un poema sinfonico di Claude Debussy, eseguito per la prima volta alla Société Nationale de Musique di Parigi il 22 dicembre del 1894. Per la precisione. Ora sentitevelo in una versione di cui non sappiamo niente perché purtroppo non ho i dettagli di chi la suona e chi la esegue, ma pazienza, sentitevelo. Thank you. E rieccoci alla Fuga del Gatto con Claude Debussy, preludio al pomeriggio di un fauno, tratto dai vari pezzi di musica che formano Allegro non troppo di Bruno Bozzetto. E continuiamo quindi, dopo Debussy arriviamo a un altro episodio molto, molto bellino. Sì, come dire. Sì, molto, molto divertente. Questo è proprio l'episodio che viene, che è tratto dalla danza slava numero 7 di Dvorak, spero di averlo pronunciato bene. È proprio un episodio che Bozzetto animò completamente da solo, quasi come un gioco personale, proprio così, uno sketch, uno schizzo che aveva da una parte, ed è infatti graficamente il più essenziale e semplice del film. Per chi ha visto il film se lo ricorderà, per chi non l'ha visto glielo diciamo, fondamentalmente si svolge in una comunità di uomini primitivi in cui uno di loro decide di lasciare la caverna per costruirsi una capanna e tutti gli altri però lo imitano, e quando lui costruisce allora una casa migliore lo imitano di nuovo in questo gioco infinito che purtroppo si chiama civiltà. Per liberarsi della scomoda compagnia di tutti gli altri, visto che continuano a imitarlo anche quando compie dei gesti bizzarri, comincia a marciare a passo militare, prontamente appunto seguito, e si butta alla fine oltre un dirupo, sperando così di liberarsi dalla massa, aggrappandosi a un rametto appena sotto il ciglio, convinto appunto che gli altri lo seguiranno e cadranno nel vuoto. Ovviamente nessuno precipita dietro di lui, e quando risale per vedere cosa è successo trova tutti gli altri disposti in fila a mostrargli il fondo schiena. Molto divertente, perché chiaramente è una palese metafora, no? della società e del singolo, se vogliamo fare una citazione stirneriana. Molto divertente, famola. A noi ci piace. È molto divertente e appunto il più essenziale, il più insomma, il più semplice a livello di grafica, relativamente parlando, è l'unico che ha realizzato appunto tutto solo Bozzetto, tutto solo lui. C'è da dire che in generale Allegro ma non troppo si distingue da Fantasia, visto che ne avevamo un attimo parlato prima, perché proprio lo stesso Bozzetto diceva: ho visto 12 volte Fantasia e Disney ha dato un'illustrazione essenzialmente grafica della musica, mentre io ho cercato di raccontare delle storie. È molto più difficile realizzare una storia seguendo la musica che non abbandonarsi alla fantasia grafica. E quindi è per questo che, insomma, anche se si fa un parallelo tra due film, in realtà il concetto alla base è abbastanza diverso, ovviamente. Vabbè, si nota ed è pure condivisibile quello che dice Bozzetto. Sì, beh, parte proprio da un assunto diverso, e quindi effettivamente il risultato è diverso. Si paragona a Fantasia e loro stessi ci scherzano appunto paragonandosi a Fantasia. In realtà poi ovviamente ha molto poco a ben vedere, se no per il fatto che tutti e due sono lungometraggi composti da sezioni animate. Chiaro. Quindi la danza slava di Dvorak e il povero individualista. Sì, le danze slave. Allora, le danze slave sono 16 pezzi, cioè una composizione di 16 pezzi per orchestra di Antonin Dvorak, composti nel 1874. Però sono stati pubblicati in due parti e quindi li ritroviamo come Opus 46 e Opus 72. Nel particolare, quella che sentiamo noi, che poi è quella che compare in questo film, è tratta dall'Opus 46 ed è la numero 7, sì, in Do minore, perché ci piacciono sempre le cose in tonalità minore. Eccoci qua dopo questo bellissimo pezzo di Dvorak, che dicevamo a microfoni spenti che effettivamente, cioè non lo so, secondo me potrebbe essere veramente usato per insegnare il concetto di contrappunto, perché c'ha delle botte e risposta durante tutto il pezzo veramente, veramente, veramente limpidi e bellissimi. Molto bello, sì. A parte questo, lasciamo a malincuore Dvorak e proseguiamo con un pezzone, questo qui, molto famoso, come dicevamo prima, a differenza un po' di Frisney, in realtà Bozzetto ha scelto alcuni pezzi neanche troppo famosi, perché insomma quello che abbiamo appena ascoltato di Dvorak che non è proprio un pezzo notissimo. Sì, però altri invece sono super super famosi, come ad esempio il prossimo di cui vi parliamo, che è il Bolero di Ravel. Esatto, l'episodio del Bolero di Ravel fa un po' da doppio a quello che dicevamo per l'apprendista stregone di Disney in fantasia, cioè in che senso? Nel senso che è l'episodio a cui è costruito, cioè attorno a questo episodio si è stato costruito il film, però questo era l'episodio, il corto che come Disney aveva pensato appunto l'apprendista stregone, no? Come vi abbiamo raccontato, come episodio singolo, e poi ci ha aggiunto intorno tutti gli altri, ha costruito fantasia. Allo stesso modo Bozzetto aveva appunto pensato e realizzato questo corto, che è molto complesso e che richiese 2 anni di lavorazione, quindi fu il primo, quello a cui lui lavorò di più e che poi ha portato poi alla realizzazione di una struttura di tutto il film, quindi è stato poi inserito in una struttura più ampia, però nasceva appunto come singolo, come uno sketch singolo di bozzetto. È il più complesso non solo da un punto di vista di grafica, perché appunto addirittura uno dei collaboratori racconta di aver lavorato mesi solo per la campitura dei viticci, insomma di alcune parti del disegno, quindi insomma non solo da un punto di vista di realizzazione è il più complesso, ma lo è anche un po' dal punto di vista del tema, perché anche qui di nuovo fa un po' il verso a quello che era il rito della primavera in fantasia, quello dei dinosauri, per capirsi. Anche qui c'è un'evoluzione della specie, c'è una nascita appunto di una civiltà, di insomma, e però qui nasce tutto da una bottiglia di Coca-Cola, lì. Che è un po' il rimando di Frisney non ci aveva pensato, perché la Terra è morta, le persone stanno lasciando il pianeta, però l'ultima cosa che buttano in questa gigantesca pattumiera che è diventato il nostro pianeta è appunto una bottiglia di Coca-Cola. Da questa bottiglia di Coca-Cola via via parte questo brodo primordiale attraverso il quale le creature delle forme più diverse si evolvono fino ad arrivare all'uomo, che dominerà tutte le altre, ma che poi dentro di sé si scoprirà essere nient'altro che una scimmia. Fondamentalmente appunto dicevamo che questo è il più complesso forse tra tutti gli episodi, perché appunto è quello più strutturato e che ha un po' una sua diegesi interna, che ha una sua lunghezza, è anche il pezzo credo più lungo tra l'altro, e la ciclicità del suono, la ciclicità, la ripetizione apparente, perché poi è sempre un po' diversa per gli orecchi più esperti, però del bolero di Ravel, della struttura bolero, che poi è un bolero, Ravel usa forma bolero è una forma musicale, e aiuta questo, no? Questa marcia continua, che è la marcia poi dell'evoluzione, che non si ferma mai appunto e che ricomincia addirittura in una struttura a circolo chiuso, no? E per chi conosce il pezzo riconoscerà sicuramente, per chi non l'ha visto insomma è uno sketch molto carino che si trova anche su YouTube da solo, estratto dal film, quindi insomma lo potete trovare tranquillamente. Io devo dire che ci ritroviamo, almeno io mi ritrovo molto nella visione della linearità del tempo come qualcosa circolare e non lineare, come affermano invece altri, e quindi una visione bozzettiana dell'evoluzione la condivido. Sì, appunto la musica è appunto aiuta questa visione grafica, perché è fondamentalmente un ritmo di marcia, e quindi al ritmo di marcia proprio l'evoluzione si incammina e poi ritorna su se stessa alla propria fine, che è poi il proprio inizio, quindi insomma questa struttura in abisso, si dice un po', molto molto bella, molto interessante. Secondo me, lettura mia, ma credo abbastanza banale, la bottiglia di Coca-Cola è anche un rimando diretto ai lavori di bozzetto come grafico pubblicitario, e forse un po' anche un'autocritica, se vogliamo, perché lui appunto per anni e anni e anni, insomma, lui è diventato famoso in Italia proprio grazie alle pubblicità. Beh, io mi ricordo un librettino dell'Enel col signor Rossi. Cioè, il signor Rossi, poi ne parleremo infatti più avanti. Il signor Rossi ti aiuta a risparmiare l'energia elettrica. Il signor Rossi, eccetera. Cioè, poi i più anziani tra noi si ricorderanno i caroselli, però che ovviamente erano molto carini, sempre di pubblicità si trattava. No, per fortuna noi non lo ricordiamo. No, noi no. Meno male. Per fortuna, ma insomma, perché poi avrei preferito le pubblicità di bozzetto a quelle che poi ci hanno propinato a noi. Sì, sicuramente. Per cui, insomma. E quindi vi facciamo sentire il bolero. Ora decidiamo se farvelo sentire tutto o brutalizzarlo verso la fine, perché comunque si tratta di un pezzo piuttosto lungo, che sono circa 14 minuti, quasi 15. Quindi ora vediamo, a seconda di come ci gira, ve lo facciamo sentire tutto oppure lo sfumiamo a un certo punto. Il bolero comunque, sappiate, per chi non... conoscere non potete non conoscerlo, è impossibile, mi rifiuto di crederlo, però... un po' di nozioni così da Wikipedia è che Maurice Ravel, il compositore, compone questo pezzo nel 1928 ed è una musica da balletto, come si evince dall'andamento di tutta la composizione. E, in Do maggiore, a sto giro siamo sul maggiore e basta, tutto il resto non ve lo proponiamo, ma boh, andatevelo a cercare se siete curiosi. E ora sentitevi il famosissimo Bolero, che voglio dedicare anche a Wendy perché so che gli piace un sacco. Thank you. rieccoci dopo Maurice Ravel e il suo bolero che non ci siamo sentiti di tagliare alla fine, e quindi ve lo siete beccato tutto, ma penso che alla fine insomma non faccia mai male. E a questo punto continuiamo, siamo quasi alla fine in realtà, ci mancano ancora solo 3 pezzi. Purtroppo appunto il tempo della fuga del gatto è sempre un po' tiranno e quindi non possiamo farvi sentire tutto come vorremmo e abbiamo dovuto scegliere un po' pezzi piccoli, infatti questo qui era il bolero, era quello più lungo. Sì, gli altri in realtà li tireremo molto più via e, però proseguiamo con un pezzo ora tristonissimo, questo sì. È veramente da lacrimoni, è molto bello, però è molto triste non solo appunto il tema musicale, ma è proprio triste anche lo sketch disegnato, legato, perché il valzer triste di Sibelius appunto non solo si basa sull'esperienza personale di Pozzetto e questo gatto, la storia è un gatto che si aggira tra le rovine di una casa, evidentemente una casa abbandonata dalla famiglia che ci viveva e che è andata a vivere in un altro posto, fondamentalmente un grande palazzo, perché poi c'è sempre un po' questo tema, già un prototema della gentrification, sì. Perché appunto l'episodio si svolge in questa casa vuota che deve essere demolita, il gatto si aggira in questa casa vuota e rivede tutti i ricordi della famiglia che ci viveva con lui e rivive tutti i bei momenti, no? Si diceva che appunto, sì, proprio. Tristissimo, il gatto che si aggira per le rovine di una casa è ispirato appunto a quello della moglie di Pozzetto che scappò dalla loro nuova casa per tornare in quella vecchia in cui vivevano, che ormai era stata abbattuta per far posto a un condominio. I ricordi del felino sono rappresentati con riprese dal vero, lavorate, però sono riprese dal vero, che mettono in scena addirittura i figli di Pozzetto, la moglie e lui stesso, in un momento in cui si vede sulla sedia a dondolo. Quindi è proprio un episodio un po' autocelebrativo, un po' autorappresentativo di Pozzetto. Io lo capisco tanto, perché è una delle cose, secondo me, più strazianti, la distruzione della casa dove hai vissuto per un sacco. Sì, è vero. Sembra appunto... queste scene appunto sembrano prendere vita, i ricordi del gatto sembrano prendere vita e diventare realtà, accendendo per un momento le sue speranze, ogni volta nel giro di pochi istanti scompaiono e lui si rende conto, il povero gattino si rende conto che in realtà appunto intorno c'è solo rovine, macerie. In realtà poi scopriremo, spoiler, ve lo spoilero, perché se non l'avete visto vi sta bene sapere. Ma infatti. A un certo punto, se no ve lo vedevate. E, che il gatto non è altro che un ricordo stesso del passato, destinato a svanire quando la casa viene definitivamente abbattuta, quindi anche il gatto non è reale. Per una serie di citazioni, la fuga del gatto, direi che era obbligatorio sentire questo pezzo. Un omaggio. Vedere, sarebbe obbligatorio vedere il pezzettino legato, che è triste, però ovviamente è carino. No, ma infatti andatevelo a vedere. E comunque vi ricordo che questo appunto valzer triste di Jean Sibelius, di cui Sibelius abbiamo fatto sentire altre cose in una precedente puntata della fuga del gatto, un personaggio molto ridente, ecco, sì, un compositore proprio famoso per le un cuor contento, come sì, si dice, per le sue composizioni alle grotte. Il valzer triste viene anche chiamato opera 44 numero 1 e tra l'altro vabbè la prima versione del 1903 e tra l'altro a parte in Allegro ma non troppo compare questo pezzo anche in Shining di Kubrick in una versione sintetizzata, insomma fatta al sintetizzatore, quindi esatto. Parecchio diversa, ma insomma diciamo che non è il primo Bozzetto che intuisce che questo fosse un pezzo piuttosto interessante da far sentire. Sì. E la versione che vi faccio sentire è della Filarmonica di Berlino, diretta da Herbert von Karajan. A proposito di stare dalla parte sbagliata della storia. Esatto, esattamente, perché comunque non è che noi... Il nostro leitmotiv. Non facciamo le cose a caso. E quindi sentitevi questa versione di Sibelius, il valzer triste. Questo era Sibelius, il valzer triste, triste ma non troppo come avrete notato. E andando avanti nel film ci sono diverse cose, proseguiamo, c'è ancora altri due brani che vi vogliamo far sentire, che vi raccontiamo come Bozzetto li ha illustrati, diciamo così, però ci siamo un po' persi il filo di cosa succede nel frattempo nei personaggi in carne ed ossa che ci sono nel film. Sì, come dicevamo all'inizio, appunto tutti questi buffissimi personaggi in carne ed ossa poi ritornano a momenti, no? Durante, intervallando i pezzi a cartoni animati di cui vi stiamo facendo sentire un po' appunto una progressione, però appunto nel film reale, nel lungometraggio, sono intervallati da degli sketch molto buffi, comici appunto di quello che succede nel teatro vero e proprio, un po' come era in fantasia appunto, no? Alla fine di ogni pezzo si vedeva un po' l'orchestra, si vedeva. Solo che qui, essendo che non è fantasia e non è Prisney, è tutto molto più assurdo e buffo e sciagurato e Casereccio. casereccio. E a un certo punto, proprio in questo punto qui, prima di introdurre il nuovo pezzo, che ora vedremo poi appunto di cosa tratta, il povero Nichetti, legato, il povero disegnatore legato al suo tavolo, da disegno schiavizzato proprio a disegnare in tempo reale proprio, che nel frattempo si è innamorato, perché lui si è anche innamorato della ragazza che pulisce, della ragazza delle pulizie. Principalmente perché è una supereroina, che Esatto. all'inizio del film si porta un pianoforte da sola in Sì, scena. proprio una super donna. E lui è affamissimo, ha molta fame perché è lì incatenato da ore e ore e ore e nessuno gli dà niente, mentre le vecchiette dell'orchestra hanno il loro cestino e il direttore e il presentatore hanno un lautopasto, ovviamente, composto di molte portate. E così Nichetti pensa, appunto, il disegnatore pensa di disegnare, di aiutare, di farsi aiutare da un disegno animato per riuscire ad avere un boccone della cena. Disegna appunto, in suo aiuto viene il signor Rossi, il famoso Già signor citato. Rossi, già citato e celeberrimo, protagonista di moltissimi lavori di Bozzetto e suo forse un po' alter ego anche, chi lo sa, se era il suo alter ego artistico. Magari lo è diventato. Esatto, e molto buffo perché è proprio un momento in cui l'animazione, appunto il disegno animato, incontra la pellicola del film, cioè è proprio uno di quei momenti molto difficili da realizzare, soprattutto prima della computer grafica, in cui il disegno animato interviene direttamente ed diciamo, nello stesso momento, sullo stesso fotogramma della pellicola. Un po' come avviene, non lo so, in certe scene di Mary Poppins, quando c'è lei che balla con i pinguini, insomma, fondamentalmente. E qui uguale, cioè il personaggio di Bozzetto esce dalla carta e cerca di andare a prendere il pollo del direttore. L'esito non sarà positivo Ovviamente. in una catartica fine del personaggio, forse un po' anelata da Bozzetto stesso, il signor Rossi viene schiacciato e distrutto e Nichetti resta senza cena, ovviamente. È così, è la triste vita del Esatto, disegnatore. Sì, è e non tutti parecchio. sono zero calcare e diventano famosi. No, no. Che amiamo molto comunque. E, sì, questo appunto introduce il penultimo spezzone a disegni animati che si svolge sulle musiche del concerto in Do maggiore di Vivaldi. E è molto carino, io lo amo molto, forse è il mio preferito, perché è tutto dal punto di vista di un'ape, quindi tutto molto animalista dal punto di vista di questa metodica ape a cui viene disturbato il pomeriggio da una coppia di innamorati che ha scelto quel prato dove è lei proprio per fare un picnic e proprio per amoreggiare. L'ape prima è costretta a spostarsi a causa appunto di questi due giganti che creano ombra con i loro corpi ed è poi travolta dai due che si rotolano nell'erba, ma si prenderà poi la giusta rivincita Vendetta. come è giusto che sia. Infatti, e il pezzo che vi facciamo sentire quindi è di Vivaldi, di Antonio Vivaldi, il concerto in Do maggiore RV 559, due clarinetti, due oboe e strumenti a corde, basso continuo in Do maggiore. Sono due tempi, larghetto e largo. E quello che vi facciamo sentire è l'esecuzione dell'ensemble Zefiro, diretta da Alfredo Bernardini. Thank you. E dopo Vivaldi ci siamo un po' ripresi, un po' di cose alle grotte, finalmente siamo quasi alla fine, perché siamo all'ultimo episodio che vi vogliamo far ascoltare, di cui vogliamo parlare di Allegro non troppo, di Bozzetto, e un pezzo di Stravinsky che per i più attenti che alla scorsa puntata dove parlavamo di fantasia ci hanno seguito e hanno preso appunti, sicuramente si ricorderanno che parlavamo di un pezzo di Stravinsky proprio scartato da Disney, da Frisney, che Bozzetto, insomma, penso non a Ha caso, recuperato dal ha cestino. preso dal cestino, come si dice, cannibalizzato come un avvoltoio, e ha preso e ha fatto lui. Sì, una piccola postilla all'episodio precedente, che per i tecnici Ah, giusto. amanti dell'animazione c'è da dire che l'episodio precedente era realizzato con la tecnica del rotoscopio, quindi i personaggi umani erano stati prima ripresi dal vero e poi calcati, ecco, per realizzare questo sketch. Ok, forse non tutti sanno che, torna sempre un po'. L'episodio dell'uccello di fuoco di Stravinsky, appunto, è realizzato in realtà da Manuli e non da Bozzetto stesso, ma contiene anche riprese dal vero di lavori di Bozzetto, perché furono firmati dei cartelloni pubblicitari di Piazza del Duomo a Milano, proprio presenti in quel momento, per dare l'idea della civiltà consumistica, perché appunto, come poi vedrete, o sapete se l'avete visto, o vedrete se lo vedrete, l'episodio si svolge appunto tutto su questo tema, cioè come racconta la Genesi, appunto Dio crea Adamo ed Eva e il serpente offre loro il frutto della conoscenza, ma inaspettatamente per questo serpente entrambi lo rifiutano. E allora il serpente se lo mangia lui il frutto, fondamentalmente, e viene sprofondato in questo mondo infernale, che è poi la nostra civiltà contemporanea, in balia dei demoni, che lo espongono agli aspetti peggiori appunto del consumismo contemporaneo. Tornato infine nell'Eden da Adamo ed Eva, si libera di tutti i simboli della cellularizzazione e striscia via, tornando alla sua forma primaria di animalo. Questo appunto è uno forse dei più interessanti degli episodi, un po' perché è composto da più tecniche, appunto la ripresa dal vero, dei cartelloni, piuttosto che appunto il disegno animato buffo, insomma, simpatico del disegno del serpente, altri momenti un po' più disturbanti, appunto. C'è questa una sequenza, tra l'altro, la sequenza della creazione dell'uomo è un'animazione a passo uno, si dice quella che ora si chiama Stop stop motion. motion, con la plastilina realizzata da questo studio master. Quindi ecco, un episodio ricco di differenze tecniche, appunto realizzato con varie tecniche artistiche e non solo con il disegno animato. C'è da dire che la maggior parte del lavoro di animazione di questo film, di Allegro ma non troppo, fu realizzato dallo studio RDA 70, e in particolare da Walter Cavazzuti e da Giovanni Ferrari, che erano appunto piuttosto noti. Esatto, e con questo vi lasciamo e vi facciamo sentire appunto questo Uccello di fuoco di Stravinsky. Allora, stavo cercando se mi È ero una suite per scritta. balletto in realtà, no? Sì, come Nasce gran parte dei come pezzi che vi abbiamo fatto sentire, in molto bello, tra l'altro, il effetti. balletto Originale. legato all'Uccello di fuoco di Stravinsky, che credo sia una coreografia che ha fatto anche Balanchine, molto molto bella per chi non la conosce. È uno dei balletti più famosi, insomma, della musica, della storia del balletto classico. Ve lo dovrete immaginare se non lo conoscete, perché alla radio non è che possiamo raccontarvelo più di Siamo tanto. brave, ma non così brave. Esatto, e quindi immaginatevelo, andatevelo a vedere. Con quest'ultimo pezzo vi salutiamo e vi diamo appuntamento domenica prossima, sempre con la fuga del gatto, sempre intorno alle 4, se non ritardiamo un pochino. E basta, alla prossima. Ciao ciao. Ciao a tutti. Mon petit pantasson, c'est mon gorille, c'est mon pourceau, mon petit.